dipingo spazio randolando nel vero. Nascondo tempo perso raccolto nel cielo. Finestra aperta per prendere aria. E vado sempre a testa alta per la mia strada. Sì, il ritardo fa parte di me. Sì, sono scomparso sull'isola che non c'è. E getto emozioni, sensazioni che fanno credere in me. Ma poi precipito sulla terra sbagliata. Preoccupazioni varcano confini. E dopo penso che bella cazzata. Non siamo mai ultimi, ma neanche mai primi. Che poi alla fine siamo quelli che ne paga le spese. Ed il mondo da noi ha troppe pretese. Mi guardo intorno e vedo solo persone offese. Io vorrei solo arrivare alla fine del mese. Vogliono prendersi il mio tempo. Sogni nel cassetto e le farfalle in tasca. Così respiro primavera anche se c'è burrasca. Ma non mi metto in moto perché ho la testa stanca. Però possiedo tutto quello che mi manca. Mi perdo dentro agli occhi delle melodie. Le vibrazioni creano nuove alchimie. E voli in alto con questi fumi e incensi. Alterazioni svegliano tutti i cinque sensi. Una vita racchiusa in piccoli gesti. Preoccuparsi di qualcuno ma senza interessi. La luce della speranza esalta i riflessi. Perché senza le ambizioni ci sentiamo persi. Non voglio un'esistenza da comandato. Voglio spezzare le catene che mi dà lo Stato. Solo giustizia e qualche occasione in più. Svegliarmi al mattino e non pensarci più. Vogliono prendersi il mio tempo. Ma non ci sto. Vogliono prendersi il mio meglio. Vado a testa alta, nella mia strada. Sei sempre a testa alta e vada come vada. Non avrete mai il mio tempo, non avrete mai la mia libertà. Spezza le catene, Saru.